tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Bombat, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario anticlericale. Ricordiamo il sito www.giordanobrunomi.wordpress.com. Per il calendario anticlericale, info@sicilialibertaria.it. Il rogo delle streghe di Venegono, in provincia di Varese, del 1520, fu proprio gestito da dei frati domenicani venuti da Pavia e che torturarono e condannarono a morte queste povere donne del Varesotto. Abbiamo poi dal sito dell'UAR a ragion veduta del 14 marzo il clerico fascismo, la clericalata della settimana. Ha attaccato la decisione del Comune di Roma di rimuovere i manifesti antiaborto di Provita, pensati per l'8 marzo e volti a colpevolizzare le donne. Parliamo della segretaria di Fratelli d'Italia, la neofascista Meloni. Da Rete l'abuso, abusi sessuali sulle suore, altro scandalo della Chiesa. La verità libera, finché non lo diciamo, come possiamo salvare il mondo? Gli abusi sessuali sui minori, eccetera, eccetera. Da Rete l'abuso del 16 marzo. Sempre Rete l'abuso del 16 marzo, quel prete ha abusato di me, di Marco Grieco. Dopo i recenti casi di pedofilia emersi nella Chiesa Cattolica in Francia, Germania, Portogallo, Spagna, 7 associazioni hanno lanciato Italy Church 2, movimento anche la Chiesa deve indagare sui preti pedofili italiani. Sul settimanale giallo del 23 marzo, Cristina Golinucci, la vittima dimenticata. Incautamente si era recata in un convento francescano di Cesena e nessuno l'ha più vista. Dal settimanale Cronaca Vera del 15 marzo, una barbarie ideata dai cosiddetti popoli civili e molto spesso utilizzata per combattere cause sante. La tortura fu introdotta nella Chiesa Cattolica dal Papa Innocenzo VI nel 1252 e apparentemente bandita da Pio VII soltanto nel 1816. Comunque so per certo che vari patrioti risorgimentali furono torturati nella Roma papale anche dopo. Il settimanale mette bellissime immagini dei frati che torturano delle povere streghe e persone accusate di eresia. Il clerico fascismo da Repubblica del 10 marzo di Paolo Berizzi è rivolto il saluto fascista nei confronti delle femministe di Non Una di Meno a Verona. Processo in corso, leghisti clerico fascisti. Dal sito local10.com, Catholic Priest, prete cattolico, condannato a circa 8 anni di prigione in Miami, negli Stati Uniti. Era un prete pedofilo che ne ha fatti tutti i colori. Dal sito tequint.com, 17 marzo 2022, nel Kerala, arrestato un prete sempre per abusi sessuali. Sexual assault, assalto sessuale a una 17enne. Nel Tamil Nadu, un 50enne prete arrestato per pornografia infantile, child pornography, 4 marzo 2022. Insomma, sempre attivissimi i preti pedofili. Da Rete l'abuso del 18 marzo. Vivere giurisprudenza, Unitrapani invitano gli studenti al webinar dal titolo Chiesa e pedofilia, storie di abusi di minori abusati, quindi si può recuperare su internet queste immagini con le voci. Vittoria anticlericale 2 marzo 2022. Germania chiude il seminario di Passau, Monsignor Oster, pochi candidati al sacerdozio. Formazione dei preti trasferita in un'altra località. Molto bene. Finisce il monastero del Clarisse. che aprì quando Santa Chiara era in vita, quindi questo residuo del Medioevo chiude finalmente a Todi, 18 febbraio 2022. Passiamo a qualche dato statistico della diocesi di Passavia, Passau in Germania. Per esempio le suore, che nel 1950 da Wikipedia, no, erano 2100, adesso nel 2019, ultimi dati disponibili, sono rimaste solo 312. Evoluzionismo contro il creazionismo. Anche il cervello evolve, quindi è tutta una balla che siamo stati creati. In realtà anche il nostro cervello evolve. Si parla, su un articolo della rivista Sapere, febbraio 2022, della storia evolutiva del cervello degli ultimi 10 milioni di anni. E si parla appunto delle formiche che condividono con gli esseri umani importanti aspetti della vita sociale, come il processo decisionale di gruppo, la divisione del lavoro e addirittura l'agricoltura. Le architetture neurali si vanno, diciamo, diminuendo di peso, di dimensione. C'è una rapida decrescita del nostro cervello. Sul clerico-fascismo è il caso di parlarne a proposito di un articolo del Quotidiano Nazionale del 20 marzo. Se Bergoglio non nomina Putin, la condanna della guerra e i silenzi. Parallelo con Pio XII e la furia nazista. Pio XII fu complice nella fuga dei criminali nazisti e segnalo il libro Dio è con noi, la chiesa di Pio XII, complice del nazifascismo, Caos Edizioni. E ricordiamo come Pio XII, per esempio, mandava telegrammi a Hitler per il 20 aprile, il suo compleanno, tutti gli anni fino al 1944. Nel 1945 non gliel'ha mandato, ovviamente. Poi, immagini anticlericali, prete ubriaco su YouTube. Prete ubriaco, 128 views, telerisate, 7 gennaio 2022, per divertirsi sui preti ubriachi. Poi vignetta sul Fatto Quotidiano, sull'avvelenamento dei papi. In Vaticano si discute di Ucraina, fratelli, parla il Papa, il sindaco di Kiev mi ha invitato. In piena guerra, sotto gli incessanti bombardamenti, chi di voi pensa che dovrei accettare l'invito? Tutti i cardinali alzano la mano, così il Papa crepa e quindi fanno carriera. Dite la verità, siete ancora incazzati con me per la riforma della curia. Quindi, per concludere, un ultimo pensiero per il 150esimo della morte di Mazzini, che sono stato lì alla Domus Mazziniana di Pisa a visitarla. Mazzini combatteva lo Stato della Chiesa non solo perché era un ostacolo all'unità italiana, ma perché aveva una concezione della religiosa, la concezione della religione completamente diversa e contrastante con quella della Chiesa cattolica. Mazzini fu un credente, ma mai un papista, aveva una religione tutta sua. Riteneva esaurito il compito del cristianesimo, che era ormai un ostacolo al progresso umano. Poi cosa diceva Mazzini? Cristo veniva ricondotto a un semplice rivelatore. Siamo alle certe eresie di primi anni, dei primi secoli dopo Cristo. Quindi se l'avessero catturato a Roma, dove dirigeva la Repubblica Romana, non l'avrebbero processato solo per motivi politici, ma anche come eretico, no? Quanto negava l'essenza divina di Gesù Cristo. Poi Mazzini era quindi anticlericale e antipapale, si rifaceva un po' al deismo settecentesco, aveva una sua religiosità civica e preromantica. La sua lotta aveva una specie di valenza religiosa, proponeva una nuova religione, senza preti, senza papi. Mazzini quindi era un grandissimo eretico, soprattutto appunto per questa sua negazione di Cristo. Poi ricordiamo il suo motto, Dio è popolo, pensiero e azione. Dio si esplica nel popolo. Non c'è posto per il clero, men che mai per il Papa. La formazione religiosa non era la partecipazione attiva alla Chiesa, ma la lotta per l'unità nazionale. un giornale giacobino, Il Censore Italiano, con una sua rubrica di tono anticlericale, era tenuta da suo padre, quindi le tradizioni anticlericali di Mazzini erano presenti già suo padre, che collaborava ai giacobini. Bene, saluti a tutti, alla prossima puntata del notiziario anticlericale. Tutti i bambini.